Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Manolo Morlacchi, arrestato lunedì scorso nell'ambito di un blitz contro le nuove BR, è il figlio di Pierino Morlacchi, che fu tra i fondatori del primo nucleo delle Brigate Rosse. In un libro pubblicato 3 anni fa, il giovane terrorista parlava con orgoglio del sogno rivoluzionario dei suoi genitori, entrambi brigatisti. Le BR però non erano impegnati in un disegno di giustizia sociale, ma in un progetto eversivo nato dalla rabbia. Scrive sulle pagine di Repubblica Benedetta Tobagi, figlia del giornalista ucciso dai brigatisti 30 anni fa. Sembra una storia uscita dalla penna di uno scrittore in crisi. Letta in un romanzo parrebbe finta, forzata. Manolo Morlacchi, il non più giovane figlio di 2 ex brigatisti, è stato arrestato lunedì scorso in relazione a un'inchiesta sulle nuove BR. Il primo istinto è la cautela. Troppe volte in Italia si sono sbattute in prima pagina le storie di presunti colpevoli, specialmente in materia di terrorismo. Poi c'è la tentazione, assai rischiosa, di enfatizzare l'apparente ineluttabilità del destino familiare, come se ci fosse un automatismo, quasi una tara ereditaria, per cui i figli debbano ricalcare le orme e gli errori dei padri. Non è così semplice. Basti pensare che per un Morlacchi arrestato, dietro agli ex terroristi ci sono più spesso storie di famiglie distrutte, genitori spezzati dal dolore, figli sofferenti, a volte vicende di tossicodipendenza, di disagio psichico. Ragazzi che lontano dai riflettori hanno dovuto confrontarsi con genitori che hanno ucciso o aiutato a uccidere persone innocenti, con tante esperienze traumatiche, dolorose. La vicenda di Morlacchi fa riflettere su una questione assai più complessa. La costruzione dell'identità in rapporto alla memoria. Si parla molto di memoria, ma scarseggiano le riflessioni sull'uso di questa parola. Come tutte le cose umane, essa porta con sé rischi e ambivalenze. I brigatisti, ad esempio, avevano un vero culto della memoria, che si palesava nella scelta dei nomi. La colonna milanese, ad esempio, era intitolata al ventenne Walter Alasia, caduto nel 1976 sotto i colpi della polizia dopo aver ucciso i poliziotti Bazzega e Padovani. Ucciderà fino al 1981. Il filosofo Zvetan Todorov mette in guardia rispetto al rischio di abusi del ricordo e distingue tra una memoria che foraggia la sete di vendetta e una memoria viva, che dialoga col presente e serve alla costruzione del futuro. Morlacchi ha scritto un libro insieme memorialistico e documentale sulla storia della sua famiglia che fa molto riflettere. Racconta il radicamento delle organizzazioni armate in alcuni quartieri di Milano come il Giambellino, un fenomeno determinante nel permettere al brigatismo di sopravvivere a lungo nelle grandi metropoli industriali, di cui si parla poco e malvolentieri, perché costringe a guardare al fatto che i brigatisti non furono dei marziani o dei pazzi sanguinari, ma vissero a lungo tollerati, a volte anche aiutati, nelle fabbriche e nella nostra società. Porta a confrontarsi con pagine scomode come la realtà, spesso inumana, delle carceri. Fa riflettere su eccessi e abusi compiuti anche dalle forze dell'ordine, che offuscano innanzitutto la memoria dei tanti servitori dello Stato che sono stati uccisi. Però, il libro di Morlacchi fa anche rabbrividire. Si intitola proprio La fuga in avanti. Sottotitolo La rivoluzione è un fiore che non muore. Rende omaggio all'ispirazione rivoluzionaria dei genitori, alla loro pratica militante contro la deriva riformista. Come se il figlio non conoscesse la storia del movimento operaio in Italia, né avesse metabolizzato la lezione della storia, fa pensare che sia archivista o laureato in storia, o il fatto che la scelta della violenza in Italia fosse intrinsecamente fallimentare. Forte l'impressione che Morlacchi sia bloccato nell'ideologia dei padri, che chiama una sorta di vendetta. Su di lui sembra ancora gravare ancora l'ombra della dinamica del gruppo chiuso, cruciale per comprendere il terrorismo italiano e di ogni forma di violenza, che può esistere solo se non prende in considerazione le ragioni e l'umanità dell'altro, per quanto avversario. Ci fa rabbrividire, perché noi oggi siamo ancora costretti a parlare di brigatisti. Pietro Ichino vive dal 2002 sotto scorta. Poche settimane fa, il giudice Salvini, che indaga sulle nuove BR, ha ricevuto dei proiettili in una busta. Residui, certo, ma hanno ucciso nel 1999 Massimo D'Antona, nel 2002 Marco Biagi e rischiano di farlo di nuovo. Si prendono di nuovo le pagine dei giornali, perché c'è ancora qualcuno che non si è reso conto che in Italia non è mai esistita una situazione pre-rivoluzionaria e tantomeno esiste ora. Che il terrorismo brigatista ha provocato troppi lutti inutili, privando il paese di intelligenze e professionalità che avrebbero potuto contribuire a renderlo migliore. Che la fuga in avanti dei terroristi nel corso degli anni 70 ha inasprito la repressione, ha ristretto gli spazi d'espressione per il dissenso, ha distrutto, senza costruire nulla. Le BR non coltivarono un sogno generoso di giustizia sociale, ma un progetto eversivo, fondato su una lettura totalmente deformata della situazione storica, che si è nutrito della rabbia e della disperazione di molti studenti, lavoratori e operai, giovani e meno giovani. Per questo, Pertini disse nel 1980, il terrorismo si combatte rendendo la società più giusta. La classe politica, impegnata a fronteggiare l'emergenza, ha trovato anche grazie ai terroristi alibi per non occuparsi a fondo delle domande non violente di giustizia sociale e di maggior trasparenza che venivano dalla società. La cecità dei brigatisti ha oggettivamente danneggiato e rallentato lo sviluppo del paese da molti punti di vista, altro che rivoluzione. Il nostro tempo ci pone di fronte a sfide imponenti, dall'integrazione delle comunità migranti allo strapotere delle organizzazioni criminali, dall'emergenza ambientale alla crisi economica e la disoccupazione, che rendono più urgente una riforma del mercato del lavoro. Sfide che creano tensioni profonde nella società. La società di oggi è profondamente diversa da quella degli anni 70, ma è importante rafforzare e consolidare gli anticorpi politici, sociali e culturali per prevenire il rischio che qualche frangia, seppur minoritaria, prenda ispirazione dall'azione mitizzata dei brigatisti, uccidendo ancora, e dirottando l'attenzione e le risorse della società dai temi più urgenti. La filosofa Hannah Arendt dice che non si può ricordare ciò a cui non si è pensato, ciò di cui non si è parlato a lungo con se stessi. Un pensiero che però si apre al confronto con la realtà, si innerva nella vita della polis. La storia di Morlacchi porta a riflettere su quanto sia importante che ogni memoria relativa a tragedie collettive, che hanno lasciato lacerazioni profonde come il terrorismo, si apra al confronto con l'esterno. Ci invita tutti a raccogliere gli spunti di riflessione offerti dalla storia della famiglia Morlacchi, così da creare anticorpi per la rabbia che essa ancora trasmette. Solo se sapremo ripensare alla complessità, alle domande e alle contraddizioni che essa ci mette davanti agli occhi, possiamo cercare di disinnescare le pulsioni violente che sono endemiche alla società e prevenire il rischio che qualcun altro oggi, perché si sente arrabbiato, disperato, senza futuro, possa ancora credere che l'incubo brigatista è stato un sogno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Benedetta Tubagi, L'eversione ereditaria, da Repubblica del 19 gennaio. Letture di Radio 24. Un libro rivela i segreti per trasformare le donne in detective e smascherare i tradimenti del proprio partner. Arriva fresco di stampa un libro che insegna a farsi del male. Ne avevamo bisogno? Pare di sì. Perché volere caparbiamente scoprire la verità, ingegnarsi nei più sofisticati modi, scervellarsi e inventare trabocchetti per sapere se il partner è un infedele, risponde a una pratica masochista tra le più letali. Ma se proprio non se ne può fare a meno, che si proceda nell'aberrazione come si fosse un investigatore alla CSI alla ricerca del dolore puro. Nascosta tra un coacervo di ovvietà, si nasconde la madre di tutte le domande. Ho le corna oppure no? E a scendere, convivo con un mostro bugiardo? Mi ride dietro tutta la città? Se la fa con la mia migliore amica? Il libro in questione, che dovrebbe aiutare il disvelamento, si intitola con un sofisticato giro di parole Schifoso traditore, sottotitolo Come riconoscere le tracce dell'infedeltà. Il viaggio non è dei più agevoli, anche perché dopo la lettura delle 100 e più pagine diffideresti anche di un santo. Ogni semplice gesto lo faresti corrispondere a una prova a carico. Innanzitutto, cerchiamo di capirci. I margini del tradimento sono molto personali, ciascuno ha la propria soglia di tolleranza, ma rientrando negli standard correnti, corna uguale amplesso, si può correre ai ripari usando delle tecniche di spionaggio anche fantasiose, aiutate dalla cronica impossibilità maschile di tenersi un segreto. I segnali da non scartare sembrano banali, come il cambiamento repentino di gusti alimentari o l'improvvisa inappetenza di un mangione. Vittorio De Sica racconta che a Natale faceva due cenoni, uno con la famiglia ufficiale e il secondo con la famiglia nascosta, non senza qualche difficoltà di digestione. Un nuovo look più curato grida al peccato. L'eccessiva e inusitata baldanza verbale nasconde l'impossibilità di reggere vuoti e silenzi che potrebbero essere riempiti con domande scomode. Attente anche agli hobby improvvisi e amatissimi, come il corso di cinese del Nord che tiene lontano da casa a orari fissi con cellulare spento. Cellulare, ecco un alleato della cornuta. Tecnicamente è possibile usarlo anche come una rice trasmittente in grado di rivelarvi conversazioni e postazioni meglio di un navigatore. Luogo ideale dove rintracciare prove determinanti sono le tasche di pantaloni e giacche, oltre alla spazzatura e all'auto. Una fanciulla, già insospettita, entrò furtiva nella macchina del marito e mise della cipria sullo specchietto del parasole sul posto del navigatore. Dopo pochi giorni controllò e ci vide stampate le impronte di dita. Solo una donna tira giù per rimettersi a posto il trucco. Divorziarono. Il cane è un buon alleato del cornificatore. Nel delizioso film Un tocco di classe, il fedifrago George Segal, per raggiungere l'amante Glenda Jackson, portava il cane al parco in continuazione, o in alternativa, infilava i calzini da tennis nella terra delle piante per recuperarli sporchi dopo l'amplesso, precostituendosi così l'alibi della partita. A insegnare che la brutta notizia però non è frutto di investigazioni, ma del caso beffardo, ci pensa un altro film, Affari di cuore, quando Meryl Streep, vittima di un borseggio, proprio a causa di questo scopre che il marito continua a tradirla dopo averle giurato di aver smesso. Non gli avrebbe creduto se solo avesse letto il libro. Lui apparteneva alla categoria ben descritta dei traditori seriali, collezionisti compulsivi che non possono fermarsi. I luoghi dove il tradimento meglio si sistema è l'ufficio. Il 40% dei lavoratori dipendenti ha una relazione con un collega, la chat e la palestra mista. Il sospetto aiuta. Diffidate dell'eccessiva cortesia, dell'eccessiva allegria. Fatevi amica la portiera prima che lo faccia lui. Ma se volete vivere felici, ignorate i segnali. La gelosia serve solo a farci soffrire, non a scongiurare le corna. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Michela Tamburrino Se la tradita diventa detective, dalla Stampa del 19 gennaio. Anche al fronte, come sul lavoro, le donne in gravidanza vengono spesso discriminate. Ma forse per le soldatesse non è poi così sbagliato, come scrive Lucetta Scaraffia sul Riformista. Sul sempre interessante sito www.donnealtri.it, Alberto Leis ha preso in considerazione una notizia che l'ha colpito, riportata dai giornali per lo più senza particolare evidenza. I comandi militari americani avrebbero previsto sanzioni gravi contro le donne soldato che rimanessero incinte mentre sono impegnate nelle operazioni belliche, e anche contro i loro mariti, compagni, responsabili dell'avvenuta fecondazione. E non solo lei scommenta giustamente che è difficile immaginare una mostruosità etica più grande. La guerra non solo legalizza il dare morte al prossimo, ma punisce e impedisce preventivamente le nascite. Ma si stupisce del silenzio tenuto in proposito dal Movimento per la Vita. Ora, non so se la notizia sia sfuggita al movimento o se sia stata una scelta precisa quella di ignorarla, ma so che la situazione in realtà è molto più complicata e difficile da giudicare. E questo fa capire come le questioni che riguardano le donne, la maternità e la modernità, siano sempre difficili da capire e da giudicare se non si conoscono bene le condizioni in cui questi problemi si pongono. È troppo facile cadere nel tranello di una spiegazione superficiale, perché capire quale è in verità la posta in gioco apre nuove e difficili questioni, come in questo caso. Le donne soldato, infatti, nei primi anni di ammissione all'esercito USA venivano destinate a servizi ausiliari e di conseguenza non erano mandate al fronte. Ma questa discriminazione impediva loro di fare carriera e di guadagnare di più. Ci fu quindi una rivendicazione vinta da parte delle soldatesse, che ottennero di essere inviate nelle zone di guerra per combattere. Vi ricordate le foto della prima donna che pilota un bombardiere o delle soldatesse che combattono in prima fila in Iraq? Ma le donne hanno presto scoperto un modo per usufruire dei vantaggi di chi va a combattere senza farlo. La via c'era: rimanere incinte. Così per legge erano pagate come chi combatte, ma erano spostate dal fronte in zone più tranquille e poi soprattutto rimandate a casa. Quando il numero delle soldatesse che avevano scoperto questa possibilità di sfruttare al tempo stesso l'uguaglianza e la differenza è cominciato a moltiplicarsi, mentre le missioni di guerra si ampliavano e chiedevano sempre nuovi soldati e naturalmente spese più elevate, il Ministero della Difesa americana ha provato con gentilezza, e mi sembra senza obbligare nessuno, a chiedere alle soldatesse e ai loro mariti un po' di attenzione. È una posizione che si può ben capire e che del resto mi sembra espressa pure con molta timidezza, per paura appunto delle rimostranze vuoi delle femministe, vuoi dei movimenti natalisti. Devo dire che, viste le condizioni, non mi sento di condannare l'esercito americano e mi sembra di capire, per di più, che l'arrivo delle donne sul fronte del combattimento abbia creato molti problemi, che non si risolvono invocando genericamente il diritto all'eguaglianza. Certo, le soldatesse combattenti ci hanno dimostrato che anche le donne sono capaci di uccidere e anzi anelano di farlo quando scelgono la carriera militare, proprio come gli uomini. E nessuno ha considerato che mentre si inneggiava alla prima pilota bombardiere, si sbriciolava il mito, così a lungo sostenuto dalle femministe di sinistra, che le donne sono naturalmente portate al pacifismo. Anche questa volta, come in molte altre, la passione dell'uguaglianza ha accecato molte persone, rendendole immuni dalla consapevolezza delle contraddizioni che queste novità poneva. Perché poi le giovani donne, come naturalmente sono le soldatesse, possono e vogliono avere dei figli e i due compiti, quello materno e quello bellico, sono sicuramente in forte contrasto fra di loro. Ma è proprio il caso che le donne vadano a combattere, a sganciare bombe per conquistarsi sul campo l'uguaglianza, per poi precipitarsi a ribadire dall'altra parte la differenza? A sostenere questa contraddizione, a dimostrare contro l'evidenza che sono possibili entrambe le cose insieme, è l'erario pubblico, quindi i contributi dei cittadini, che invece potrebbero essere utilizzati per cose più utili. Questa situazione, poi, penalizza fortemente i soldati maschi, che non possono rimanere incinti e quindi devono per forza andare a combattere senza neppure la soddisfazione ideologica di sentirsi i difensori della patria, i protettori delle loro famiglie, magari di essere guardati con ammirazione e gratitudine dalle donne. In queste condizioni, continueranno a fare il loro dovere? Si troveranno ancora uomini disposti a farsi ammazzare per la sicurezza degli altri? Possono sorgere dei dubbi in proposito, quando il valore simbolico della loro scelta appare così sminuito. Però, nonostante tutto, dal momento che le donne possono e vogliono rimanere incinte, è di nuovo sulle loro spalle, e solo sulle loro, il compito di difendere il loro paese. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Lucetta Scaraffia, Soldatesse incinte tra uguaglianza e diversità, dal Riformista del 7 gennaio. Dopo l'ondata di persecuzioni perpetrate sui cristiani da un capo all'altro del mondo, il vicepresidente della Camera, Maurizio Lupi, e il presidente dei deputati PDL al Parlamento europeo, Mario Mauro, scrivono una lettera aperta al Corriere della Sera per evidenziare una tragedia troppo spesso ignorata dai media. Caro direttore, i continui attacchi contro le comunità copte in Egitto e le violenze che da sabato mattina terrorizzano i cristiani, protestanti e cattolici della Malesia non sono che gli ultimi episodi di un'ondata di terrore che sta invadendo tutto il mondo. Gli ennesimi segni del lungo calvario in cui si trovano le comunità cristiane, soprattutto dove sono minoranza, frutto di quella che appare essere una vera e propria strategia per chi ha una concezione del potere che non ammetta la democrazia. Da anni, infatti, i cristiani non possono liberamente professare il proprio credo in Cina, in Vietnam, in Sudan, in Pakistan, Iran, Iraq e India. Sono decine di migliaia le persone deportate, migliaia i morti, migliaia i preti e le suore uccisi barbaramente mentre lavorano per aiutare le popolazioni locali. Migliaia le chiese e i luoghi di culto danneggiati o, peggio ancora, rasi al suolo. Tutto questo avviene, il più delle volte, nella totale indifferenza del mondo occidentale, anche se, a differenza del recente passato, i mezzi di comunicazione sembrano più attenti e autorevoli editorialisti, come ad esempio Pierluigi Battista su questo giornale, non hanno paura di chiamare le cose con il proprio nome, denunciando una violenza che sembra non avere fine. Chi continua a rimanere indifferente, purtroppo, sono le istituzioni. Il Consiglio europeo, ad esempio, sollecitato qualche mese fa dal ministro Frattini, si era impegnato a stigmatizzare i reiterati assalti nei confronti delle comunità cristiane nel mondo. Ma la montagna ha partorito un topolino, se consideriamo che l'esito è stato un blando documento sulla libertà religiosa. È un vero e proprio complesso culturale quello che impedisce alle istituzioni internazionali di uscir fuori dallo schema degli opposti estremismi, formula buona per tacitarsi la coscienza e non voler vedere ciò che accade nella realtà. Eppure fede, religione e spiritualità sono riconosciute da gran parte del mondo come un fattore imprescindibile della vita personale e comunitaria di un individuo. Hanno un ruolo rilevante nell'ordine pubblico e nella stabilità sociale. Sono la base su cui si fondano gli interventi nel campo del lavoro, dell'educazione e della partecipazione civica, in nome di quella laicità positiva che è sempre di più fattore determinante delle politiche degli stati occidentali. Un'idea che però stenta ad affermarsi in contesti come quello medio orientale e nei paesi asiatici a larga maggioranza musulmana, dove, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, si guarda al cristiano come a un surrogato della potenza da distruggere. Qui, infatti, la laicità, intesa come la possibilità di un dialogo costruttivo tra culture e religioni diverse, pur professata a parole, non esiste. La nostra responsabilità è far capire ai governanti di questi paesi che se vogliono veramente un futuro di pace e di dialogo, devono utilizzare ogni mezzo in loro possesso per difendere la pluralità religiosa. C'è bisogno di tolleranza, che non significa qualunquismo, ma rispettare le convinzioni degli altri, salvaguardando le proprie, e quindi convivere senza violenza. Dobbiamo fargli capire che devono utilizzare ogni mezzo in loro possesso per difendere le minoranze e non cedere a tentazioni teocratiche per ragioni in ordine pubblico o elettorale. Ma perché ciò avvenga, occorrono azioni di condanna ferma e senza condizioni in difesa della libertà religiosa. La tutela delle comunità cristiane e della loro libertà religiosa, infatti, è fattore essenziale della democrazia e della pace. Si colpiscono i cristiani perché la loro presenza nel mondo è evidenza di una misura non riconducibile a progetti di potere. La comunità internazionale non può rimanere indifferente. La difesa dei cristiani coincide con la difesa della ragione stessa dell'esistenza delle istituzioni internazionali. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maurizio Lupi e Mario Mauro, Difendere i cristiani perseguitati, dal Corriere della Sera dell'11 gennaio.